dunque volete che io mi riduca a delirar con voi? Parla, ma siano brevi detti tuoi. Parlino queste gemme, io tacerò. Bandita e fregi ad ordi, inidi e intinte. Ahimè, che miro. Alcandro, riconosci questa catena? Se la conosco, è quella che al collo avea quando le spose all'onde il tuo figlio bambino. Licida? Oddio, tremo da capo a piedi. Licida, sorgi! Guarda! E ver che costei ebbe in dono da te. Però non deve morir per me. Una promessa occulta non ebbe effetto. E col solenne rito l'Imeneo non ci strinse. Io chiedo solo se il dono è tuo. Sì. Da qual man ti venne? A me dono lo Aminta. E questo Aminta chi è? Meco venne, meco in Enide è giunto. Questo Aminta si cerchi. Ecco